17. Minestra di Krapfen. Meno lo zucchero è la stessa composizione del numero 182. Ecco le dosi di una minestra per 7 o 8 persone. Farina d'Ungheria grammi 100, burro grammi 20, lievito di birra quanto una noce, uova numero 1, sale una presa, tirato il pastone astiacciata della grossezza alquanto meno di mezzo dito, tagliatelo con un cannello di latta del diametro di 2 centimetri per farne come tante pasticche che porrete a lievitare. Le vedrete crescere in forma di pallottole e allora friggetele nell'olio, se lo avete eccellente, altrimenti nel lardo o nel burro. Quando siete per mandare in tavola, collocatele nella zuppiera e versate sulle medesime il brodo bollente.